Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Siamo ancora nella fase pandemica, quindi è vero che possiamo chiamarla fase 2, ma ad oggi abbiamo ancora nuovi casi ogni giorno, un po' in tutte le regioni, e abbiamo tutta una serie di indicatori che ci mostrano che sta migliorando la situazione anche rispetto alle persone ricoverate, soprattutto nelle terapie intensive, ma comunque abbiamo una situazione quotidiana con dei nuovi casi che vengono individuati. Questo ha detto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, cioè dice: d'accordo, stiamo riaprendo, però tutto con cautela, visto che ormai siamo al quarto giorno dalla fase 2, dice: certo, l'epidemia non è finita, di questo dobbiamo essere consapevoli tutti, però alcune cose stanno ricominciando. Per esempio, dal 18 maggio è stato raggiunto questo accordo tra la CEI, la Conferenza dei Vescovi, e il governo: riprenderanno le messe, poi man mano anche ci si occuperà degli altri culti. Poi ci sono però le regioni che scalpitano. Oggi c'è stata la conferenza delle regioni, dalla quale è emersa una richiesta precisa al governo, cioè riapertura anticipata di alcuni negozi l'11 maggio, e poi il 17 maggio le regioni chiedono un nuovo decreto del Presidente del Consiglio per dare più autonomia alle regioni sul resto poi delle aperture, delle altre attività, degli altri allentamenti. E ci sarà per questo ospite il Presidente della Liguria, Giovanni Toti. Poi, per quanto riguarda la politica, ancora politica interna, il governo, pace fatta all'interno del governo, dopo le tensioni ieri sulla questione delle regolarizzazioni dei braccianti immigrati, quindi degli immigrati del comparto agricolo, dopo che la ministra dell'agricoltura Bellanova aveva detto: se non saranno regolarizzati mi dimetto. Oggi c'è stato un incontro tra Conte e Italia Viva, visto che la ministra Bellanova è di Italia Viva di Renzi, e sembra che insomma sia andato bene questo vertice, questo incontro. Parleremo anche con un importante psichiatra di depressione, perché l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha lanciato un allarme per dire che naturalmente non si vive di solo pane, o non è che tutti sono felici e contenti una volta che si riprendono man mano le libertà, anche perché siamo sempre un po' ostaggio di questa pandemia, e si rischia una depressione serpeggiante, in alcuni casi anche grave, e quindi chiede di rafforzare insomma il sostegno, il supporto psicologico e psichiatrico alle persone. Quindi tantissime cose di vario tipo, per lo più sempre naturalmente legate allo stesso tema, ma ci siamo ancora molto invischiati purtroppo. Per i vostri commenti, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp al 349 238 6666. Lo ripeto, 349 238 6666. Ma prima di approfondire con gli ospiti tutti questi argomenti che vi ho anticipato, sintesi della giornata. I dati relativi al coronavirus in Italia: sono meno di 90.000 le persone attualmente positive, sempre in Lombardia il 50% dei nuovi casi, boom di guariti, ma i morti sono stati 274 nelle ultime 24 ore. Le richieste delle regioni al governo: riapertura dei negozi già dall'11 maggio e dal 18 maggio più poteri per decidere. Il governo apre a possibili differenziazioni. Effetto Notte, e ci sarà il presidente della Liguria, Toti. La tenuta della maggioranza: l'incontro tra Conte e Italia Viva di Renzi fa rientrare lo scontro sulle minacciate dimissioni della ministra Bellanova, ma il centrodestra presenta intanto la mozione di sfiducia per il ministro Bonafede. Ammessa dal 18 maggio, raggiunto l'accordo con la CEI per le scuole, siamo ancora alle bozze sui protocolli di sicurezza. I presidi lamentano ancora aspetti troppo incerti. Francia, fine del lockdown oltre Alpe dall'11 maggio, quando il paese sarà diviso in due zone rosse e verdi. Le frontiere resteranno chiuse ai partner europei almeno fino al 15 giugno. Partiamo quindi come sempre dai dati forniti dalla Protezione Civile sull'epidemia di Covid-19 in Italia. I contagiati totali da coronavirus nel nostro paese, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 215.858, con un incremento rispetto a ieri di 1.041. Sono salite a 29.958 le vittime, con un incremento di 274 in un solo giorno. Ieri l'aumento era stato di 369. Quindi sono meno di 90.000 le persone attualmente positive nel nostro paese, sempre in Lombardia però il 50% dei nuovi casi, e poi c'è stato per fortuna un boom di guariti. Però sentiamo Borrelli, cauto, il capo della Protezione Civile, sulla fase 2. Il CTS, come ho detto, farà le proprie valutazioni, e sulla fase 2 c'è un attento monitoraggio, e anche previsto la possibilità di inasprire misure di contenimento in relazione a fenomeni che dovessero rimarcare una ripartenza della diffusione del virus, che ci auguriamo tutti che con i corretti comportamenti vengano di fatto limitati e annullati, mi auguro, al massimo. Oggi si fanno circa 70.000 tamponi al giorno, numero che crescerà nelle prossime settimane, ma inizialmente era molto più basso. A oggi i tamponi sono l'unico metodo per individuare il contagio virale. Ma una persona oggi negativa può essere domani positiva e viceversa, ha detto così Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, in audizione oggi in Commissione Affari Sociali. E c'è stato un accordo per la distribuzione di altri 10 milioni di mascherine alle farmacie, che saranno vendute al pubblico a 50 centesimi più IVA. È l'intesa che sarà siglata nelle prossime ore tra il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, Federfarma e l'Associazione Distributori di Farmaci. Prosegue, dicevo, quindi il lento ma continuo calo dei contagi, di fronte ai quali le regioni spingono per maggiori aperture per far ripartire l'economia. I presidenti delle regioni chiedono all'unanimità al governo di anticipare di una settimana, dal 18 all'11 maggio, le aperture del commercio al dettaglio ancora oggi chiuse. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, spiega i contenuti del documento approvato dai governatori. Abbiamo chiesto al governo di anticipare all'11 di maggio la riapertura del piccolo commercio al dettaglio, una categoria che sta soffrendo moltissimo. Abbiamo anche chiesto al governo che dal 18 tornino ad essere le regioni a stabilire territorio per territorio che cosa e come riaprire. Secondo le regioni, una sospensione prolungata di negozi, centri sportivi, parrucchieri, bar, ristoranti mette a rischio la sopravvivenza di migliaia di attività economiche. Nella conferenza Stato-Regioni, il ministro Francesco Boccia ha confermato le aperture del premier Conte sulla possibilità di anticipare aperture di bar, ristoranti o altri esercizi al 18 maggio anziché l'inizio di giugno e sulla possibilità che siano le regioni a decidere, ma solo dopo aver visto la prossima settimana i dati del contagio dopo l'avvio della fase 2 e solo dopo la messa a punto delle linee guida INAIL sulla sicurezza, dunque non prima del 18 maggio. Alessandro Arona, Radio 24. Il Sole 24 Ore. E appunto su questo tema delle richieste delle regioni sarà ospite tra poco qui Effettonotte il presidente della Liguria Giovanni Toti. A partire da domani saranno consentite in Lombardia le attività sportive individuali all'aria aperta nell'ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, a quanto stabilisce un'ordinanza appunto della regione Lombardia. Sul fronte del turismo, uno di quelli che sta soffrendo di più in questo periodo, arrivano i dati di Federalberghi. In audizione al Senato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Il 2020 si era preannunciato con segnali positivi, ma già a febbraio abbiamo registrato le prime flessioni. A marzo si è avuto il primo vero tracollo delle presenze negli alberghi, meno 92% di presenze. E ad aprile il mercato si è completamente fermato, raggiungendo il 99% di calo sugli stranieri e il 97% di calo sugli italiani. Tutto questo, secondo le nostre stime, porterà alla fine dell'anno a un calo di presenze di circa 71% rispetto all'anno precedente, quindi 305 milioni di presenze in meno, con una perdita di fatturato di quasi 17 milioni. Provano invece a ripartire, pur fra mille ostacoli, i ristoranti. Qui siamo a Milano. Con la sport, onestamente, magari arrivano un po' di muratori, un po' di persone, 5-6 caffè alla volta, li portano via. Il fatturato da sport non supera il 10% di quello abituale, ma l'importante per i bar in questa nuova normalità è esserci. Marghera, Vercelli, Magenta, siamo in uno dei cuori storici della città di Milano, zona residenziale, commerciale e di studi professionali. La fotografia dei pubblici esercizi aperti grazie all'asporto rispecchia quella nazionale, con pizzerie, gelaterie e pasticcerie a fare la parte del leone, più defilati ristoranti e bar. Mi sembra una cosa fantastica, ma io amo il caffè, mi piace prenderlo al bar, quindi mi sembra già un passo avanti questo. Rocco Pizzimenti è il direttore operativo di Panino Giusto, l'insegna storica di Milano che qui conta uno dei suoi 18 locali in città. I nostri clienti stanno scoprendo un attimino questa nuova evoluzione del takeaway. Quello che ci auguriamo tutti noi è che questo segmento non cresca, perché vogliamo che i nostri clienti vengano a vivere l'esperienza giusta, che è quella dei nostri ristoranti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per la politica, pace fatta nella maggioranza su giustizia e regolarizzazione dei lavoratori in nero. Italia Viva continuerà a lavorare per il paese, twitta la ministra Teresa Bellanova. Poi ne torneremo a parlare tra poco qui Effetto Notte, così come anche della mozione di sfiducia presentata dal centrodestra contro il ministro della giustizia Bonafede. L'antitrust ha avviato un'indagine sui prezzi dei generi alimentari e di altri prodotti come detergenti, disinfettanti e guanti per capire se si siano verificati fenomeni di sfruttamento dell'emergenza sanitaria, di speculazioni in sostanza. Tuttavia, fa sapere lo stesso antitrust, i maggiori aumenti dei prezzi si riscontrano in aree non interessate da zone rosse o da misure rafforzate di contenimento della mobilità. E adesso all'estero, in Europa. Fra tentativi di ripartenza e proroghe delle chiusure, la Francia ha annunciato che le frontiere resteranno chiuse almeno fino al 15 giugno. La buona notizia è che il piano per la riapertura può essere avviato da lunedì, ha annunciato il premier francese Edouard Philippe. Je vous l'ai dit. Ma restano in rosso la regione d'oltremare di Mayotte e l'Île-de-France, dove l'epidemia è calata ma non quanto sperato. Qui le scuole non riapriranno. Nel resto del paese, invece, ha detto il ministro dell'istruzione, l'80-85% degli istituti potranno riaccogliere gli studenti delle primarie se lo vorranno, gli altri a scaglioni nelle settimane successive. Prepara la fase 2 anche il premier britannico Johnson, la presenterà lunedì, ma pare sarà molto prudente. Ci faremo guidare dalla scienza, ha detto. Al governo spagnolo chiede di riaprire la regione di Madrid, sebbene più colpita, mentre quella di Barcellona ha presentato un piano più cauto. Ancora in piena espansione l'epidemia in Russia, che ora è il quinto paese al mondo per numero di contagiati. Mentre riaprono ai turisti negozi, alberghi, ristoranti in Slovacchia e nel land tedesco dello Schleswig-Holstein sul Baltico. La Grecia invece ha scelto il 18 maggio per la riapertura dell'Acropoli e degli altri siti archeologici. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Stati Uniti e l'amministrazione Trump ha accantonato un documento di 17 pagine elaborato dai Center for Disease Control and Prevention, l'agenzia sanitaria americana per la tutela della salute, con i suggerimenti degli esperti alle autorità locali su come e quando riaprire ristoranti e altri luoghi pubblici durante la pandemia di coronavirus negli Stati Uniti. Quindi questo documento sarebbe stato messo da parte dall'amministrazione Trump. Lo riportano i media americani. Il rapporto, rivolto a dirigenti statali, locali, imprenditori, educatori, leader religiosi, avrebbe dovuto essere pubblicato venerdì scorso, ma gli scienziati dell'agenzia è stato detto che le direttive non vedranno mai la luce, secondo quanto riferito da un dirigente coperto da anonimato. No, in Italia, cronaca, questa mattina è stato siglato a Palazzo Chigi il protocollo tra CEI e governo italiano che permetterà la ripresa delle celebrazioni con i fedeli in condizioni di massima sicurezza. Il protocollo entrerà in vigore da lunedì 18 maggio, poi ne parleremo. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia Italiana del Farmaco insieme sono impegnati nello sviluppo di uno studio nazionale comparativo e controllato per valutare l'efficacia e il ruolo del plasma ottenuto da pazienti guariti da Covid-19 come metodica unica e standardizzata. Il plasma dei soggetti guariti viene impiegato per trattare nell'ambito di questo studio prospettico, rileva l'AIFA, malati affetti da forme severe di Covid-19. Se ne parla molto, però appunto ancora bisogna fare degli studi per certificare del tutto l'utilizzo. Utilità e la non dannosità di questa terapia. Parliamo di camminare e di pensare. Camminare e pensare vanno di pari passo. Con l'età, a rallentare della prima azione, quindi del camminare, c'è anche il rallentamento della seconda. Si tratta infatti di due funzioni parallele. Al rallentamento fisico dunque si associa quello mentale, causando così un aumentato rischio della mortalità. A scoprirlo è stato uno studio dei ricercatori dell'Università del Texas a Sant'Antonio, che aprono così la strada a nuove ricerche attorno al mondo della geriatria. È stato dimostrato che gli anziani colpiti da questo doppio rallentamento, quindi del camminare e del pensare, hanno un rischio di mortalità quasi 7 volte maggiore rispetto a chi ha una cognizione stabile e non perde la velocità nell'andatura. Chi ha iniziato la ricerca con alti livelli di cognizione e velocità nella camminata ha dimostrato di essere funzionalmente indipendente durante tutto il decennio successivo. Chi aveva dei punteggi ridotti invece continuava a diminuire le proprie capacità a un ritmo accelerato. Gli sforzi preventivi dovrebbero idealmente essere rivolti agli adulti giovani e di mezza età, perché c'è ancora tempo per intervenire e modificare le traiettorie, spiega Helen Azzuda, ricercatrice principale dello studio. La ricerca è stata pubblicata sull'International Journal of Geriatric Psychiatry. Per chiudere, lo sport, calcio, la Bundesliga e la Liga 2, quindi in Germania, pianificano di riprendere il campionato sabato 16 maggio, lo ha annunciato la DFL in una conferenza stampa. E poi questa notizia che ai mondiali militari di Wuhan ci siamo ammalati tutti 6 su 6 nell'appartamento e moltissimi anche di altre delegazioni, tanto che al presidio medico avevano quasi finito le scorte di medicina. Questo ha detto Matteo Tagliariol, uno dei campioni della scherma azzurra, lo ha raccontato quanto accaduto lo scorso ottobre e il possibile contatto col coronavirus già allora. Insomma, già era serpeggiata questa notizia ieri e così gli atleti appunto confermano, almeno Tagliariol e anche alcune atlete italiane, che potrebbe essere già avvenuto il contagio. Per l'ora la Cina smentisce. Bene, direi di fermarci qui dopo la sintesi della giornata, in modo che tra poco possiamo addentrarci in alcuni argomenti in particolare con gli ospiti. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. C'è un ascoltatore che mi fa una raffica di domande, ma in questo momento non ho esperti di questo tipo. Dice: si prevedono aumenti per i redditi e le pensioni di cittadinanza? Se sì, quando? Non lo so. E poi dice: inoltre, è possibile muoversi in provincia con i mezzi pubblici e con o senza autocertificazione? Allora, quando abbiamo avuto l'esperto di tutte queste regole, il portavoce dei funzionari di polizia, Laquaniti, ci ha detto che naturalmente, e lo sappiamo, insomma, in città ci si può muovere nella propria regione, non attraverso le varie regioni, se non per motivi di emergenza, di lavoro, eccetera, di salute. E nella propria regione ci si può muovere se ci si allontana di molti chilometri per andare appunto a visitare un congiunto, e non soffermiamoci ancora sul significato di questo termine. Allora sì, un'autocertificazione per dire: sto andando dalla mia mamma, sto andando da mia zia, io mi chiamo così cos'ha e sto andando da qui a lì, eccetera eccetera. Ma insomma, sui mezzi pubblici sì. Ora, cosa si intenda per provincia? E, provincia di Milano, dentro la provincia di Milano non dovrebbe servire autocertificazione, però troppe domande. Ne vedo anche di questioni sanitarie, di chi dice di avere dei problemi di dissenteria, eccetera. Non sono in grado in questo momento io personalmente di rispondere. Ci sentiamo tra pochissimo con gli argomenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi ad accompagnarvi tutte le sere attraverso le notizie più importanti e poi a cercare di chiarire, di spiegare alcuni argomenti in primo piano con gli ospiti. Però non sempre ho qui presenti degli esperti o di salute oppure di regole o dei giuristi, eccetera. Un altro ascoltatore che mi chiede: può chiedere al suo esperto se un orfano può andare a trovare un amico? Grazie. Allora, in questo momento vi rispondo secondo quello che ho imparato finora, nel senso, sappiamo che purtroppo gli amici al momento non sono previsti. Lo so che qualcuno diceva: io sono solo, non ho i genitori, non ho figli, non ho parenti. Io personalmente purtroppo non posso farci niente, ma al momento queste sono le regole. Però comunque siamo al quarto giorno di questa benedetta fase 2, partita il 4 maggio, quindi delle progressive riaperture, allentamenti, graduali, con il paese che ricomincia appunto lentamente e un poco per volta a vivere dopo due mesi e mezzo di forzata sospensione delle nostre vite, inevitabile vista la pandemia che ha stravolto tutto il mondo. Alcune attività produttive sono riprese, molte altre no. In base, il governo insomma lo ha deciso in base ai dati sui contagi nel nostro paese e ha ritenuto, con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio, di prospettare altre due tappe vicine di questa fase 2, cioè il 18 maggio, data nella quale apriranno altre attività, e poi il 1 giugno per i prossimi allentamenti, per le prossime riaperture. Però, come sapete, diverse regioni, per lo più di centrodestra, per esempio il Veneto in testa, ma anche alcune regioni governate da centrosinistra, come per esempio l'Emilia-Romagna e la Toscana, chiedono da qualche tempo di poter procedere prima di queste date alle riaperture. Sapete della fuga in avanti che ha fatto nei giorni scorsi la Calabria della presidente Iole Santelli, con tutte le polemiche che ci sono state, anche la diffida da parte del ministro degli affari regionali Boccia, ministro che da diverso tempo dice: guardate, aspettiamo il 18 maggio e da lì poi sarà possibile fare, magari a seconda dell'andamento dei contagi differenti nelle varie regioni, delle differenziazioni di aperture da regione a regione. Però ci sono appunto delle regioni che scalpitano e oggi dalla conferenza delle regioni, presieduta dal presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini, è emersa una richiesta precisa al governo. Quindi, da lunedì 11 maggio, via libera al commercio, all'apertura di negozi. Dal 18 maggio, scadenza dell'attuale decreto del Presidente del Consiglio, la possibilità di dare alle regioni più poteri, quindi di poter disporre delle restanti aperture con le proprie ordinanze. La notizia è stata data su Twitter dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ho il piacere di avere ospite qui Effetto Note. Buonasera Toti. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Presidente, quindi lei tra l'altro ha detto: se le nostre richieste non dovessero essere accolte, considereremo lese le prerogative delle regioni, d'altra parte quanto deciso questa mattina dalla cancelliera Merkel in Germania. Esattamente così. Guardi, noi abbiamo ovviamente accettato tutti, noi ma anche i sindaci per la verità, una riduzione di tutti i poteri delle regioni che sono organizzati e regolati, come sapete, dal titolo quinto, in virtù del fatto che il governo si è sostituito nella gestione di una crisi con una serie di decreti del Presidente del Consiglio, anch'essi, ricordo, sono strumenti amministrativi e neppure di legge. Dopodiché adesso riteniamo che in questa fase di apertura si debba necessariamente, come dire, procedere in modo diversificato. D'altra parte l'ha fatto, l'ho detto nel mio tweet, anche la Merkel stamani ha riunito i governatori dei Länder e ha detto: ragazzi, aprite come ritenete, il governo vi girerà, perché tutte le regioni hanno diverse esigenze, diverse situazioni di epidemia, ma anche diversi tessuti economici e sociali, quindi c'è bisogno in alcune di aprire prima alcune cose, in altre hanno ancora altre esigenze. Anche noi, se oggi... mi perdoni, Presidente Toti, la Germania è un paese diverso e anche gestito in un modo differente, sia per fortuna, sia magari per competenze, per una serie, guardi, di altre cose, no? L'epidemia. Per la verità, in questa fase, ora al di là di qualche po' di colore politico che c'è sempre in Italia, la collaborazione tra governo e regioni nelle differenze di valutazione e anche nelle differenti responsabilità c'è stata da parte delle regioni, è stata seria, abbiamo collaborato nella fase dell'emergenza, le polemiche su alcune cose che sono certamente partite tardi e male, pensi a tutto il fatto dei dispositivi di protezione individuale, non ha creato quella acrimonia politica che avrebbe potuto. Io credo semplicemente questo: si apre la fase 2 e noi abbiamo all'unanimità, quindi non c'è un tema politico centrodestra, centrosinistra, Bonaccini come Emiliano, come De Luca, come Toti, come Fedriga, come Zaia, abbiamo chiesto al governo uno di anticipare all'11 una serie di aperture che sono discriminate fortemente, basti pensare che chi vende vestiti per adulti è chiuso, chi vende vestiti per bambini è aperto, le librerie sono aperte, i negozi di arredo casa non lo sono, cioè non ha molto senso tutto questo e credo che ci possiamo permettere questo anticipo. E poi dal 17, quando scadrà l'ultimo provvedimento del Consiglio dei Ministri, non abbiamo chiesto nient'altro che tornare all'equilibrio costituzionale, cioè ai poteri condivisi tra il governo e enti locali che possono regolare il loro territorio sulla base di linee guida governative, ma insomma è chiaro a tutti che la Liguria ha esigenze legate alla nautica, ai porti, al turismo, altre alla manifattura, all'artigianato, altri ai distretti produttivi del legno, ognuno ha le sue prerogative, le sue priorità ed è giusto che vengano regolate su base locale. Non capisco francamente se nella fase centrale virulenta dell'emergenza occorreva in qualche modo avere, e forse si poteva anche lì fare qualche cosa di più variegato, forse non sarebbe stato neanche male, ma insomma non era momento di discutere certo di prerogative costituzionali e di diversificarsi. Oggi che andiamo verso una riapertura mi sembra assolutamente legittimo che le regioni si riappropriano di quelle che sono le loro prerogative, ma per il bene dei territori. Presidente Toti, Bocce è tornato, il ministro degli affari regionali, a ribadire ancora oggi che in base a quello che succederà il 18 maggio ci potranno essere delle possibili differenziazioni nelle riaperture regionali anche in base, dice, alle linee guida dell'INAIL, quindi messa in sicurezza dei posti di lavoro, ma anche il livello dei contagi. Le faccio sentire oggi che cosa ha detto Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Siamo ancora nella fase pandemica, quindi è vero che possiamo chiamarla fase 2, ma ad oggi abbiamo ancora nuovi casi ogni giorno, un po' in tutte le regioni, e abbiamo tutta una serie di indicatori che ci mostrano che sta migliorando la situazione anche rispetto alle persone ricoverate, soprattutto nelle terapie intensive, ma comunque abbiamo una situazione quotidiana con dei nuovi casi che vengono individuati. Quindi Brusaferro di nuovo ha chiamato alla cautela. Sentiamo anche Borrelli, capo della Protezione Civile, che tutti i giorni fornisce da tempo i dati sui contagi, sulle vittime, eccetera. Il CTS, come ho detto, farà le proprie valutazioni, e sulla fase 2 c'è un attento monitoraggio, e anche previsto la possibilità di inasprire misure di contenimento in relazione a fenomeni che dovessero rimarcare una ripartenza della diffusione del virus, che ci auguriamo tutti che con i corretti comportamenti vengano di fatto limitati e annullati, mi auguro, al massimo. Presidente Toti, in che situazione è la Liguria adesso rispetto ai contagi? La Liguria è stata sicuramente una delle regioni più colpite, per di più aggravato da un'età media della popolazione che, come noto, è la più anziana d'Europa, sì, e non d'Italia. Quindi è chiaro che è stata una lotta difficile, ma è stata una lotta che abbiamo affrontato con una sanità che ha risposto al di là di ogni immaginazione. Anzi, noi siamo la regione che ha il maggior numero di terapie intensive per migliaia di abitanti, quindi è stato fatto uno sforzo straordinario, e in questa fase in cui anche oggi calano gli ospedalizzati di ogni specialità e di ogni livello di gravità, noi stiamo aumentando i posti in terapia intensiva proprio per prepararci ad ogni evenienza e per garantire quell'equilibrio e quella sicurezza nella ripartenza. Voglio anche dirvi però che non è che, con tutta la stima di Brusaferri, che è persona preparata e anche equilibrata, e di Borrelli, con cui ho collaborato in mille emergenze e che quindi considero un amico, bisogna tenere presente tutto l'equilibrio del Paese. Non può essere il Comitato Tecnico Scientifico il governo di questo Paese, perché non è stato votato da nessuno, è una visione necessariamente parziale della situazione, perché è fatta da medici, è fatta da persone che ovviamente la loro vita è la sconfitta del coronavirus, come per tutti noi, ma a differenza del Comitato Tecnico Scientifico, la mia vita è cercare di salvare la Liguria dalla morsa del coronavirus, ma evitare che muoia per fame nei mesi successivi. Allora occorre trovare un equilibrio che la politica deve necessariamente ritrovare. Non possiamo, tapparci gli occhi, la bocca e le orecchie e dire l'hanno scelto i tecnici, perché non è così che si governa un paese. Si deve ascoltare seriamente quello che dicono i tecnici, si devono avere dei parametri seri su cui si prendono le decisioni, e poi bisogna tenere presente che questo paese ha bisogno di sconfiggere il coronavirus, ma di sconfiggere anche una crisi che ci porterà a meno 10 punti percentuali di PIL, che vuol dire meno 10% nelle tasche degli italiani, che vuol dire, calcolando le categorie che sono comunque protette nel nostro paese, che le categorie meno protette avranno crolli del loro tenore di vita della metà, e forse più della metà del loro tenore di vita. Allora, di questo noi dobbiamo tenere conto, come dobbiamo tenere conto del fatto che non può essere un paese, anche se qualcuno forse piacerebbe, che viva di sussidi, il reddito di cittadinanza, poi il reddito Covid, poi il reddito di convalescenza. Occorre che questo paese torni a esercitare quel ruolo di potenza economica, industriale, turistica e culturale che ha sempre avuto. Toti, per chiudere, intanto ci può fare qualche esempio per l'11 maggio? Quali attività vedrebbe? Guardi, non mi faccio esempio, le dico cosa abbiamo scritto nel comunicato congiunto. Abbiamo chiesto che il commercio ad esclusione della somministrazione di alimenti e bevande possa cominciare a riaprire. Quindi parliamo di negozi di vestiti, di casalinghi, tutti i negozi che sono negli Ateco non considerati filiera strategica che il governo ha tenuto chiuso fino adesso. Ora qualche cosa è stato riaperto via via con ordinanze delle regioni, ma insomma ancora poca cosa. L'abbigliamento, i casalinghi, tutta una serie di articoli da regalo, insomma la maggior parte del commercio è ancora chiuso. È chiaro che su somministrazione di alimenti e bevande e altre situazioni come gli artigiani per la cura della persona, parrucchieri e estetisti, forse una settimana in più, ma non molto di più, sarà necessaria. Ma io, la profilassi che si usa per andare a scegliere un vestito per mio figlio, credo non possa essere la stessa profilassi che usiamo per scegliere un vestito mia moglie piuttosto che io, piuttosto che lei, insomma. Su quello siamo abbastanza pronti, e non credo neanche che comporti una mole di persone molto superiore in giro. Peraltro vogliamo dire che gli italiani hanno affrontato questa fase 2 con grande, grande attenzione e prudenza, perché se guardi i numeri della circolazione in Regione Liguria dalle celle telefoniche, ovviamente anonime, vedo che il volume degli spostamenti non è aumentato di così tanto, anzi, tante persone che stanno tutto il giorno a lavorare escono di meno di quanto non facessero prima. Adesso proprio la lascio e la saluto, Presidente Toti. Mi dica una cosa però, voi avete detto dall'11 maggio vorremmo tutte queste riaperture, mancano 3-4 giorni, quando aspettate quindi la risposta al massimo da parte del governo? Il ministro Boccia si è preso, come dire, la pratica che dicendo che avrebbe sentito Comitato Tecnico Scientifico, Istituto Superiore e ovviamente il Presidente del Consiglio Conte, noi ce l'aspettiamo nei prossimi giorni. Rilevo che io temo che se non arriverà una risposta, molte regioni, come è già successo, scatteranno una serie di provvedimenti individuali della legittimità consentita, ma insomma le pieghe della legge in Italia sono sempre molto complesse e a quel punto sarà difficile reggere il sistema paese senza che tutti gli altri si accodino. Quindi io, se fossi il governo, lo dico, come dire, nell'interesse di un corretto rapporto istituzionale, comincerei a definire una via concordata con le regioni, perché i bracci di ferro e le fughe in avanti e indietro non servono onestamente a nessuno. Bene che non si arrivi allo scontro. Grazie Presidente della Liguria Giovanni Toti. La ringrazio e buon lavoro, un abbraccio alla Liguria. Allora, qui ci fermiamo per una breve pausa di sospensione, di riflessione. Vedo diversi vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp, li potete inviare al 349-238-6666. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di aggiornamenti, informazioni, dei vostri commenti, degli ospiti. Abbiamo appena avuto ospite il Presidente della Liguria Giovanni Toti a proposito della conferenza delle regioni che c'è stata oggi, in cui le regioni tutte insieme hanno fatto due richieste precise al governo, quindi con risposte che devono arrivare evidentemente entro breve, cioè da una parte la possibilità di riaperture di diversi negozi dall'11 maggio, diverse attività commerciali, e poi dal 17 maggio un nuovo decreto del Presidente del Consiglio che dia delle autonomie, capacità decisionale, autonomia decisionale alle regioni sulle successive riaperture. Sempre Roberta Giordano con voi, complimenti a chi sta ascoltando Effetto Notte, così un giorno non potrete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante. Vedo qualcuno che dice Claudio dalla Spezia, avesse visto alla Spezia domenica cosa c'era in giro di persone, sembrava la festa patronale. Diciamo che in alcuni posti effettivamente qualcuno ha interpretato questa graduale libertà in un modo, diciamo, un pochino troppo estensivo. Per esempio ci diceva il Presidente della Regione Liguria Toti che in Liguria c'è poca ulteriore circolazione dopo questa riapertura dal 4 maggio. Devo dire che a Milano il traffico più o meno è ritornato come era prima della pandemia, io che tutti i giorni vengo e vado dal lavoro. Poi invece Dario dice l'audio di Toti è pessimo perché non gli chiede per i suoi ascoltatori eccetera eccetera. Ragazzi, a volte ci si trova in situazioni, e raggiungo gli ospiti in situazioni magari è così un po' estemporanee, in cui non sempre l'audio è perfetto. A me è sembrato che si sia capito però tutto chiaramente quello che ha detto il Presidente della Regione. Poi c'è qualcuno che magari, insomma, chi ha orecchie più sensibili, chi meno. Però adesso ci occupiamo sempre di politica interna, politica di governo, con la nostra Betta Fiorito. Bentornata cara Betta. Buonasera radioascoltatori, Roberta. Allora, come è appunto in parte ripresa la vita di noi comuni cittadini, se ne parlava, anche la politica italiana riprende man mano le sue attitudini, i suoi riti, e dunque a scaldare l'atmosfera in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, alcuni temi in particolare. Lo scontro sulle regolarizzazioni dei braccianti immigrati, cioè i migranti che lavorano nel comparto agricolo, con la ministra Bellanova di Italia Viva che ieri aveva minacciato le dimissioni se non si passasse a queste regolarizzazioni, e poi quindi avendo contro da una parte l'opposizione di centrodestra e dall'altra però anche all'interno del governo insomma posizioni diverse tra all'interno del Movimento 5 Stelle e qualcosa anche col PD. E poi l'altro grosso argomento che è il le polemiche sul ministro Bonafede, che è nell'occhio del ciclone per la polemica con il PM antimafia Di Matteo, che in una trasmissione televisiva nei giorni scorsi lo aveva accusato di averlo prima individuato come possibile direttore capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e poi di averlo invece abbandonato in quel senso. E poi soprattutto nell'occhio del ciclone Bonafede, sappiamo, per i tanti boss scarcerati messi ai domiciliari in questi giorni per la pandemia. A questo proposito farei sentire, anzi su questo ci andiamo dopo, Betta, perché mi sembra che invece sulla questione Bellanova, regolizzazione eccetera, dentro il governo si sia, diciamo, un po' ristabilita una certa serenità. Oggi c'è stato l'incontro di Conte con alcuni esponenti di Italia Viva, compresa la ministra Bellanova, e mi sembra che siano usciti tutti soddisfatti? Ma diciamo che questo gioco al rialzo di Italia Viva francamente certe volte non si capisce. È un partito che ha il 2%, a quanto si capisce, dagli ultimi sondaggi, e questo rende molto nervoso Matteo Renzi e tutti i renziani. Allora, lo scontro sull'agricoltura è uno scontro che ha anche nel merito, perché alla Bellanova non gli si può dire, essendo stata una persona che comunque ha lavorato, ha fatto la sindacalista in questo campo, eccetera, di essere una persona che non conosce la materia. Però è vero anche che in questo momento dove ci sono varie anime, eccetera, eccetera, entrare a gamba tesa e dire o si fa proroga del permesso di soggiorno scaduto per i migranti che lavorano nell'agricoltura di 6 mesi, oppure io me ne vado, insomma, sembra sempre un po' questo out continuo di Italia Viva. Un ricatto un po' drastico, rende, una fibrillazione inutile, perché poi oggi si sono incontrati col premier Giuseppe Conte, si è andati ad un compromesso, come aveva chiesto anche ieri la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, sia al Movimento 5 Stelle che non vuole la sanatoria con Vito Crimi, sia alla Bellanova che invece voleva subito i 6 mesi di proroga. Come sempre succede in un governo, in una maggioranza, poi si discute, le varie opinioni, uno fa un passo indietro, l'altro fa un passo indietro. Oggi c'è stata la quadra che per esempio non soddisfa Liberi Uguali, perché De Petris oggi ha detto 3 mesi per perché si parla di un prolungamento, sono troppo pochi. Quindi la mediazione, cioè, sarebbe questa, allungare di 3 mesi il permesso di soggiorno, no, di questi braccianti. Sì, allungare certo, per i braccianti. Chiaramente questa è una battaglia che il centrodestra contrasterà, una battaglia però nel merito, perché poi non è perché Vito Crimi del Movimento 5 Stelle, ci sono varie posizioni, Vito Crimi del Movimento 5 Stelle che è un pochino schierato un po' più a destra nel movimento, no, diceva no a sanatorie proprio a Radio 24, 24 mattino ieri, però poi diceva allora facciamo che chi recepisce il reddito di cittadinanza va lì a raccogliere le arance, eccetera. Noi sappiamo che tutto questo è utopistico, estremamente complesso. Anche, come fai a obbligare chi prende il reddito a raccogliere le fragole? Valentina Furlanetto, che si occupa di migranti, ha intervistato poi un rappresentante della CGIL che diceva appunto che non è che poi tutti quanti siamo braccianti agricoli, no? Come non tutti siamo virologi, anche lì, cioè, bisogna saperle quindi fare. Sono tutte cose che vanno poi discusse all'interno di un governo, di una maggioranza. Urlare sempre, non so quanto poi a livello politico possa beneficiare Italia Viva. Questa è la mia questione politica. A proposito di Italia Viva, ti voglio far sentire Rosato di Italia Viva, presidente di Italia Viva, che dice non vogliamo le polemiche con il governo, e comunque oggi con Conte abbiamo individuato alcune priorità. Per quanto ci interessa e per quanto ci riguarda, per noi c'è solo il problema degli italiani, che mi sembra siano molto concentrati su questa emergenza e sull'emergenza economica. È l'unica questione che per noi è al centro della discussione. Però per passare all'altro tema caldissimo, quello appunto del ministro Bonafede, che è oggetto di attacco da parte dell'opposizione, ma non solo, ci sono state varie polemiche, appunto, dicevo, sia per la questione Di Matteo dell'ex PM antimafia, sia soprattutto per la scarcerazione in questi giorni di quasi 400 boss. Adesso ieri Bonafede, che ha fatto questo question time, ha partecipato, insomma, un'informativa in Parlamento, dicendo che sta preparando un decreto per rivalutare, riesaminare tutte queste scarcerazioni, questi domiciliari, però nei suoi confronti il centrodestra si è servito buona fede da una parte a compattare il centrodestra, che ha presentato oggi una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Allora farei sentire Salvini che appunto parla della mozione di sfiducia. Su questo sono contento, perché dopo ore e ore di lavoro il centrodestra compatto, unito, ha trovato una posizione comune che è stata depositata in Senato. E poi oggi Cafiero De Raho, che è capo dell'antimafia, ha detto delle cose abbastanza gravi a 24 Mattino, qui a Radio 24. Sentiamo. Ci si è lasciati prendere dal timore e dal rischio del contagio, ma vede, io ho letto in particolare i provvedimenti di detenzione domiciliare dei detenuti assegnati al 41 bis e di qualcun altro, e non si è evidenziato invece che il detenuto che si trova al regime speciale di quell'articolo 41 bis è un detenuto innanzitutto che si trova in isolamento e quindi è evidente che non può essere contagiato. Non si comprende perché anche per i detenuti al 41 bis ci fosse questa preoccupazione, e bastava un termoscan. Insomma, il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, che abbiamo sentito appunto oggi 24 Mattino, ha detto ma non c'era bisogno di scarcerarli, anche perché i boss sono al carcere duro, quindi il 41 bis sono isolati, quindi non c'era tutto questo rischio di Covid-19. Poi dice, se proprio basterebbe un termoscanner, come fanno anche a noi quando veniamo tutto il giorno al lavoro, ce lo mettono in fronte e si capisce se abbiamo la febbre oppure no. Dal blog del Movimento 5 Stelle però c'è stata questa risposta alla mozione di sfiducia del centrodestra. C'era scritto oggi sul blog: i partiti del centrodestra vogliono sfiduciare Alfonso Bonafede, un ministro scomodo. Sfiduciare Alfonso significa sfiduciare la lotta alla corruzione, il contrasto alle mafie, le riforme per processi più brevi ed efficienti, le misure per garantire che nessuno rimarrà più impunito. Betta. Allora, intanto sfiduciare Alfonso Bonafede vuol dire sfiduciare il rappresentante del governo del Movimento 5 Stelle al governo, quindi in questo momento è il rappresentante della forza maggiore all'interno del governo, perché ricordiamo che comunque il Parlamento è fermo a quando si è votato e quindi il Movimento 5 Stelle è al 32%. E però bisogna dire che qui, se vogliamo essere molto molto benevoli nei confronti di Alfonso Bonafede, si tratta abbastanza di imperizia, perché qui ci sono due tegole che sono arrivate nell'arco di 24 ore. La prima è quella di Di Matteo, che ha detto che non era stato fatto capo del Dipartimento perché avrebbe avuto delle pressioni, alcuni boss avevano reclamato, e ieri poi Bonafede si scopre dopo 24 ore che dei boss al 41 bis, quindi in isolamento, che possono essere benissimo controllati, nutriti con i vassoi e tutte le l'ufficiale penitenziario che li porta con i guanti, le mascherine e il cibo, non c'era assolutamente bisogno di scarcerarli e di rimandarli dove loro poi fanno gli affari. Quindi secondo me si tratta di imperizia è molto grave, e quindi se vuol dire che è una persona che comunque non è giusta in quel ruolo, perché fa poi delle gaffe, no? O anche genera dei problemi, no? E se non si tratta di imperizia è ancora più grave. Però io presumo che Alfonso Bonafede sia poi preso magari da troppe leggi eccetera eccetera, e poi gli sfugge quello che è la gestione amministrativa dello Stato, che è molto più importante. Quindi secondo te Bonafede è in buona fede, ma un po' sulla prescrizione è importante non far uscire i boss dal carcere. Cioè, alle volte questo fatto che bisogna sempre mettere medaglia al petto, la firma su una legge, poi ci fa sfuggire che un ministro della giustizia è un ministro col portafoglio, per cui vuol dire con un ministero che deve amministrare la giustizia. Poi si può pure fare la legge in un futuro, ma questa legge spazza corrotti, cioè queste bandierine, francamente in un momento così delicato poi si scarciano i boss, è una follia. Cioè amministriamo lo Stato, poi pensiamo pure anche a fare le leggi o a fare no alla prescrizione, sì alla prescrizione, tutte queste cose. Però se poi si fanno le leggi e non si sa amministrare lo Stato, per un ministro della giustizia questo secondo me è grave. Sentiamo su questo che cosa ha detto il segretario del Partito Democratico Zingaretti. Addirittura io mi rivolgo a tutti, maggioranza e opposizione, per dire troviamo su questo mafia nelle carceri, contrasto ai poteri criminali, lotta per l'economia legale, quali sono i provvedimenti d'urgenza che in un momento di crisi economica e in un momento di grande investimento pubblico è necessario avere affinché le risorse finanziarie arrivino a chi ha bisogno e non ai mafiosi. Questa è la missione anche di questo governo, che noi abbiamo sempre detto deve governare in una ricerca continua di dialogo con le opposizioni. Allora, scrive un ascoltatore, Francesco da Verona: la sensazione, al di là dell'opportunità di una crisi di governo, è che nessuno vorrebbe davvero andare oggi a elezioni e forse nemmeno fra qualche mese. A chi converrebbe prendere in mano un paese che andrà di fronte a una crisi drammatica? Zingaretti però oggi ha detto, sempre Zingaretti, che se il governo non ce la dovesse fare, l'unica strada è il voto. Così ha fatto eco anche Tajani, vicepresidente di Forza Italia, che ha detto: tocca al capo dello Stato decidere, ma per noi la via maestra sono le elezioni, come anche il Presidente della Repubblica ha già fatto capire. Poi Spadafora, ministro dello Sport del Movimento 5 Stelle, ha detto: non credo che possiamo permetterci di pensare a crisi di governo con un'emergenza sanitaria come questa. Per chiudere, Betta, che ti sembra della tenuta del governo in questo momento? Ma lì c'è sempre il fatto che si parla sempre a Montecitorio di questo accordo tra i due Mattei, che sono Matteo Renzi e Matteo Salvini, per fare fuori Conte e per metterci Mario Draghi. Ma vogliamo dire che forse magari Mario Draghi non è interessato, o magari sarà interessato tra 2 anni quando scade il Presidente della Repubblica? Ma l'ha detto lui, ha detto Draghi se è interessato o non interessato, cioè tutti lo tirano in mezzo, ma lui ha dato una risposta, ha fatto un commento. Ma su questo. Draghi è talmente dato un signore che non si permetterebbe mai di entrare in queste diatribe della politica italiana. Questo tirarlo per la giacchetta mi sembra un po' inutile. È chiaro che per esempio da parte di Matteo Renzi c'è un assio nei confronti di Giuseppe Conte, quindi ci sono queste alzate di scudo della Bellanova e poi che rientrano. Dall'altra parte Matteo Salvini, figuriamoci, sarà legato al dito ad agosto, quando poi Conte ha detto che la crisi era quella. E però poi un'alternativa, a parte Mario Draghi, che è molto ipotetica, non c'è. Chiaro. E comunque in un momento così di crisi andare al voto mi sembra un po' suicida. Forse un cambio di governo, di unità nazionale, ma già litigano su tutto, maggioranza opposizione, maggioranza all'interno della maggioranza, opposizione all'interno dell'opposizione. Attenzione, c'è vivacità, i sondaggi danno Fratelli d'Italia in grado di combattere contro la Lega, che invece sta in debacle. Quindi sai, sono tutte cose molto spinose e anche il problema è che ci si prepara ad una crisi economica molto profonda e che forse tutto sommato, come diceva l'ascoltatore, ha ragione, non conviene. Insomma, maggioranza e opposizione dovrebbero dialogare un po' di più. Chiaro. Betta Fiorito, ti ringrazio, ti saluto, un abbraccio, cara Betta. Grazie a voi. Ciao Betta. Poi un ascoltatore che ci tiene a dire, al contrario dell'ascoltatore di prima, Federico, dice: guarda, l'intervento del governatore Totti si è sentito chiaro e limpido. E così anche un altro ascoltatore, ciao Roberta, dice Andrea: guarda, io sono fissato su certe cose, ti garantisco che Totti si è sentito bene, eccetera eccetera. Va bene, ci sentiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con le notizie. Un'altra novità di oggi è che si torna a messa dal 18 maggio, perché è stato raggiunto un accordo tra il Presidente tra il Governo, il Presidente del Consiglio, il Governo e la Conferenza dei Vescovi. Quindi da lunedì 18 maggio si potrà tornare a seguire le celebrazioni religiose nei luoghi di culto. E, tra l'altro, Conte ha ringraziato la CEI, ha detto, per il sostegno morale e materiale che sta dando all'intera collettività nazionale, e la Ministra dell'Interno, Lamorgese, ha detto: un ottimo risultato, analogo impegno abbiamo assunto anche con le altre confessioni religiose. Ma su questo coinvolgo il nostro vaticanista del Sole 24 Ore, Carlo Marroni. Carlo? Ciao. Sì, ciao, ciao Roberto, buonasera a tutti. Quindi si torna a messa, questa era stata una richiesta forte, c'era stato anche diciamo un po' di tensione tra governo e vescovi, il Papa aveva cercato di ammorbidire un po' dicendo bisogna essere disciplinati, ubbidienti, però si è raggiunto un accordo, il 18 maggio si torna a fare messa. Sì, c'è stato, come hai detto te, una discreta maretta su questo fatto. Due settimane fa, la domenica dell'annuncio di Conte, diciamo della parziale riapertura, non era stato proprio neanche citata questo tema, peraltro importante, non riguarda solo i cattolici, ma insomma in gran parte i cattolici, e la CEI, la Conferenza Episcopale, si era molto arrabbiata, fece un comunicato di fatto inedito nella storia della Repubblica, di questi toni veramente duri, durissimi. Si parlava addirittura di violazione della libertà religiosa, insomma un tono molto duro. Da lì in poi, dopo i due o tre giorni, il Papa stesso era intervenuto, come hai detto giustamente te, per richiamare un po' i vescovi a un ordine diciamo di toni più bassi, e quindi poi si è ricominciato a trattare, e evidentemente è servita questa alzata di toni, e sì, il 18, anche perché i dati dell'epidemia sono abbastanza confortanti, e quindi con però un protocollo lunghissimo che l'hai citato, di più di 30 punti, in cui insomma ci sono tante limitazioni che verosimilmente saranno rispettate. La CEI si è impegnata a rispettare questi punti in questo senso. Se una parrocchia non sarà in grado di mantenere tutti questi impegni, che sono veramente tanti, allora proprio non celebrerà pubblicamente. Quindi se non ci sarà un responsabile all'ingresso, se non ci saranno tutte le sanificazioni, e credo che gli stessi fedeli saranno interessati che queste vengano rispettate, queste norme. Certo. Ecco. Bene, quindi tutte le misure di sicurezza, è ovvio, e poi si valuterà se è il caso o non è il caso, a seconda appunto, come dicevi tu, delle chiese, dei dispositivi di sicurezza, se ci sono o non ci sono, e se naturalmente chi va in chiesa le rispetterà. Carlo, e sì. Poi... Sì, insomma, io non so se tutti saranno in grado di rispettarlo, perché poi le chiese non è che c'hanno tutto questo personale all'ingresso, cioè, insomma, magari nelle città, nelle parrocchie più importanti, più anche quelle medie, potrà essere fatto in tanti posti, credo che non cominceranno neanche a fare tutte queste procedure, perché sono veramente giuste e tante, ecco, e credo anche dispendiose un pochino. Quindi tanto per cominciare, diciamo, questa apertura, e poi si vedrà man mano anche l'andamento proprio nel paese del contagio da tutti i punti di vista, dalle riaperture delle regioni di cui parlavamo prima, anche a queste cose come appunto le messe, le celebrazioni in chiesa. Grazie al nostro Carlo Barroni. Grazie a te, Carlo. Roberta. Un abbraccio. E adesso vi devo parlare dell'allarme dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che l'emergenza Covid, tra tutte le crisi, tra tutti gli aspetti estremamente negativi, drammatici, sta portando con sé anche ansia, paura, disturbi del sonno, depressione in forma anche grave, e le segnalazioni legate a questi problemi sono in aumento, secondo quanto spiega in un editoriale che sarà pubblicato da World Psychiatry, anticipato dall'ANSA, il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus. Ne voglio parlare con Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia ed ex presidente della Società Italiana di Psichiatria. Bentornato, Mencacci. Grazie, buonasera a tutti. Se lei dovesse dire appunto che cosa sta succedendo, se appunto lei ha avuto esperienza di pazienti, di persone anche che magari stavano bene psicologicamente prima del Covid-19 e adesso, per esempio, l'OMS chiede proprio di rafforzare l'assistenza psicologica e psichiatrica per le persone. Sta diventando fondamentale, ce lo aspettavamo, quella che possiamo chiamare una seconda ondata pandemica riguardante la salute mentale. Perché quello che si è andato via via a costituire durante il periodo prima del distanziamento, poi dell'isolamento, è stata una progressiva crescita dei disturbi da stress che si manifestano dall'irritabilità ai disturbi gastrici, all'aumento dell'ansietà, la paura che ha pervaso molti dei nostri cittadini, ai disturbi del sonno, ai disturbi depressivi. Senza considerare tutta quella vasta gamma di persone che hanno subito delle perdite, dei lutti, certo, e sono delle condizioni drammatiche verso le quali dovremmo agire, perché non hanno potuto svolgere un minimo rito funebre. Di fronte a tutto questo, l'allarme dell'OMS, che era stato preannunciato anche dagli studi provenienti dalla Cina, ci aveva messo in guardia, e diverse indagini lo hanno confermato. Che cosa confermano? È che dobbiamo evitare quello che potremmo dire, la tempesta perfetta, cioè da un lato la paura, da un lato quella condizione di costante allerta, allarme, essere stati messi alla prova da questo lungo isolamento, associato a quello che è una prospettata crisi economica e quindi con tutta la condizione di impoverimento e di rischio di disperazione. Ecco, in questo l'OMS, in questa occasione per tempo, non come ha fatto in precedenza, lancia un allarme, dice: attenzione, la salute mentale è un qualcosa che può essere a seguito di quanto sta accadendo dalla pandemia virale. Prestiamoci attenzione e rinforziamo quei servizi sul territorio che sono e sono stati in questo periodo, perché non ha mai chiuso la psichiatria. I servizi hanno continuato a funzionare, sono stati gli unici a continuare a funzionare sul territorio mentre tutti gli altri ambulatori specialistici hanno chiuso. E noi abbiamo diverse prove, perché fondamentalmente i pazienti più gravi hanno continuato a ricevere aiuto nonostante le condizioni di gravissima difficoltà. Quindi avete continuato a lavorare, professor Mencacci, ma appunto, come dice l'OMS, è bene che siano rafforzati questi sistemi di aiuto territoriale, no? Anche da un punto di vista psicologico, psichiatrico, proprio perché io sento, adesso non abbiamo più tempo, ma c'è anche qualcuno che mi scrive: io piango tutto il giorno, adesso ho paura di uscire, insomma, certo. Bisogna... Anche perché c'è l'effetto del lungo isolamento, per qualcuno è diventato anche un effetto capanna, la paura del fuori è una cicatrice che durerà a lungo, cioè la notte è ancora lunga. Questo dobbiamo averlo presente, perché lo stato di allerta e lo stato di evitamento ci sono e ci saranno ancora per tempo. Dobbiamo intervenire, abbiamo gli strumenti per poter fare un po' di prevenzione per tempo. In questo senso il rinforzare sul territorio e rinforzare soprattutto la salute mentale dei nostri cittadini adesso, ma anche per quello che verrà, per tutti i lutti che abbiamo avuto, credo che sia indispensabile. Grazie professor Claudio Mencacci. A presto. Grazie, a presto. Buona serata. Sentiamo le 22.